24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti, 30 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Una buona giornata a Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a te, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che come ogni mattina, magari andando al lavoro in macchina, ci seguono. Sì, chissà. o magari da casa, o magari al lavoro, sì. chissà. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i messaggi WhatsApp, anche audio. Fateci sentire la vostra voce che ci fa piacere. Tra un attimo parleremo di legge elettorale, non perché, per così dire, siamo feticisti di sistemi elettorali, ma perché siamo comunque cittadini, no? Siamo comunque prima cittadini, o poi ci faranno votare ed è comunque, e bisogna sapere esattamente come. È rilevante ovviamente, sì, per la democrazia, ed è rilevante anche per il prosieguo della legislatura, insomma. Quindi tra un attimo ne parleremo anche di imprese, di autostrade, non solo di questo. E però, cara Maria, è venerdì e il polemicone del giorno è su queste parole, quelle di Amadeus, soprattutto quelle sulla fidanzata di Valentino Rossi. Quella deve rimanere un passo indietro. Sentiamo. Ecco, Francesca, per esempio, è una come dire, una sorta di scommessa personale, perché a volte non per forza devi conoscere. Ero curioso, questa ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro. Maria, in realtà, sì, aspetta, perché poi è tutto così, cioè è tutto più o meno così, tutte quante è bellissima, non ce n'è una che allora sia definita intelligente. Aspetta, sentiamone, sì, solo un altro. Fammi almeno dire, perché mi proprio aspetta, Carmelo Lauricella, vai. E poi ho piacere di avere donne meravigliose questo festival, e quindi volevo ringraziare da destra a sinistra Francesca Sofia Novello. Grazie Francesca, è una ragazza, ovviamente sono tutte molto belle, una modella, ragazza bellissima, sono contento. No, per favore, toglietemelo dalla cuffia, perché se ce l'avessi davanti. Allora, primo, io posso immaginare che abbia detto queste scemenze sapendo che poi tutti noi ci saremmo cascati e avremmo parlato dell'inutile festival di Sanremo. Per me è inutile. Sei snob però, Maria. Non sono snob. Un festival che comincia con un conduttore sempre lì, sono 20 anni che sta lì, prima o poi, eccetera, e che come prima cosa tira fuori un commento che io sento fare soltanto dagli ottantenni che incontro: ma che bella questa ragazza, ma che bella. Oh, questi erano i commenti che si facevano 40 anni fa. Ora, Amadeus, siamo nel 2020, che una ragazza che faccia Sanremo sia bella è del tutto ininfluente. Quindi sottolineare questo aspetto attiene a un modo di fare televisione degli anni 50-60. Si dirà, d'accordo, c'è un pubblico anziano e ci si rapporta a questo pubblico. No, perché se poi vuoi far parlare del Festival di Sanremo ricorrendo appunto alla polemica sulla bellezza, eccetera, assesti un duro colpo alla modernità di questo paese. Secondo, trovo stucchevole che per darsi un'aria di modernità in linea con i tempi il Festival di Sanremo abbia 10 donne. Io 10 donne le voglio vedere ai vertici di questo paese, ai vertici delle aziende, ai vertici della Presidenza della Repubblica quando si cambierà, lì le voglio vedere. Sul palco di Sanremo non me ne frega niente che ci siano 10 donne, ci sono sempre state, fanno le vallette. E mi dispiace che i quotidiani tutti abbiano dato spazio anche nei giorni scorsi alla polemica su Rula Gebral. Cazzate, fatemelo dire. Terza cosa, stamattina citavate con Paolo Mieli la polemica, l'ennesima stucchevole polemica, secondo me anche questa finta. Elisabetta Gregorasi, sì, allora lo dico agli ascoltatori che non hanno sentito la rassegna stampa: l'apertura del quotidiano Il Giornale è dedicata ad Elisabetta Gregorasi, che dice: mi hanno esclusa dal dopo festival perché il mio ex marito Flavio Briatore è di destra. Allora, Ora, abbia pazienza, signora Gregoracci. Suo ex marito, Briatore, è il più caro amico dell'agente dello spettacolo Lucio Presta, che è quello che ha messo lì Amadeus. Due le cose. O è una finta anche questa per far parlare di Sanremo e ci stiamo cascando tutti, sì, me per prima, sì, sì. E allora sì, mi dispiace. Oppure è stato il suo ex marito, signora Gregoracci, a dire a Lucio Presta non far venire Elisabetta. Due sono le cose, ma per cortesia, giuro, dopo questa, questo sfogo, mi riprometto che almeno per una settimana, Simone, del Festival di Sanremo non parlerò più. Magari ne parlo io, perché a me piace, lo devo confessare, io lo guardo il Festival di Sanremo, va bene, lo guardo. Oh, Carmelo Lauricella, quella parte di Maria, tagliamela, che poi ce la riutilizziamo a nastro. Maria Stella Germini, Forza Italia, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, che ne pensa lei di questa storia di Amadeus? Va, ce lo dica pure lei, così ci siamo e poi andiamo sulla legge elettorale. Guardi, io sinceramente sono molto affezionata a Sanremo, lo vedo tutti gli anni ed ecco. Sì, dire, perché è una politica, lo deve dire, perché fa popolare, ma diciamo la verità, non ci credo per niente, non ci credo che lei passi le serate a vederselo, un pezzettino. Mi faccio finire. Allora, a me piace, nel senso che è una trasmissione popolare, ma bella, che appartiene un po' alla tradizione della Rai e anche degli italiani. Detto questo, anch'io sono rimasta sorpresa da 10 donne. Perché 10 donne è un po' come nessuna donna, mi piacerebbe di più vedere al posto di Amadeus una donna o comunque una partecipazione più forte. Il rischio è che il ruolo delle donne sia un po' ridotto a quello delle vallette, su questo sono d'accordo con Maria. Però come negli anni 50, 60, 70, ma su via, è vecchissima, è un'immagine vecchissima del paese. Sì. E vediamo quale sarà, dai, vediamo. Senta Gelmini, allora parliamo un po' anche di questa storia della legge elettorale, so che non è molto appealing per gli ascoltatori, però appunto sono le regole della democrazia. La bocciatura di un referendum al quale voi contavate anche come Forza Italia. Beh, diciamo che noi, certo, la legge elettorale non ha un grande appeal e rischiamo il crollo degli ascolti, però io cerco di semplificare il tema. Forza Italia rispetta la scelta della Consulta, però rileva un rischio, cioè quello di un ritorno all'ingovernabilità, perché il proporzionale non è il sistema migliore possibile. Abbiamo passato tutta la Seconda Repubblica a dire, lo diceva Berlusconi, ma lo diceva anche Renzi, anche Veltroni, anche Prodi, che gli elettori avevano diritto alla trasparenza e quindi a sapere la sera prima del voto chi fosse il candidato premier, il programma e la coalizione. Oggi accontentarsi del proporzionale vuol dire non solo tornare all'ingovernabilità della Prima Repubblica, ma non preoccuparsi del dopo vittoria, perché il problema non è solo avere una fetta di potere in Parlamento, poi bisogna anche governare questo paese. Quindi io credo che senza un premio di maggioranza, senza un'attenzione alla governabilità, pensando che ancora una volta i governi si formino in laboratorio, in Parlamento, dopo il voto, sia un colossale errore. E sia anche uno smentire quello che dicevano i leader del Partito Democratico, non solo il presidente Berlusconi. Senta Gelmini, qualcuno maliziosamente già ieri sera faceva notare che secondo alcune proiezioni di sondaggisti, se si va a votare con la legge proporzionale, Germanicum o come la vorranno chiamare, l'insieme delle forze di centrodestra, dal PD all'EU, mettendo insieme anche i piccoli partiti, Italia Viva, Azione di Calenda, eccetera, potrebbe avere, sia pure di poco, la maggioranza. In pratica, dopo tutti questi sondaggi che danno sempre il centrodestra in vantaggio, col proporzionale voi potreste vedere chiuse ancora una volta le porte del palazzo. È così? Ma guardi, allora, gli osservatori della legge elettorale fanno mille elucubrazioni. Cioè, quando si va al voto, e prima o poi si dovrà andare, perché non è che in questo paese andiamo al voto solo quando la sinistra è maggioritaria. Quando si va al voto la parola passa agli italiani e io ho un'enorme fiducia, perché oggi questo governo, il governo Conte Bis, è un governo che è palesemente minoritario nel paese, e se le forze politiche di centrosinistra fossero così convinte di avere la maggioranza al voto ci saremmo andati. Non è che col proporzionale si truccano le carte, col proporzionale si getta il paese nell'ingovernabilità, ma i numeri dei partiti restano quelli che sono. e quindi francamente io vedo la sinistra in forte difficoltà. Lo abbiamo visto anche nelle ultime elezioni regionali, dove il centrodestra ha vinto dappertutto, quindi non credo che sia la legge elettorale a cambiare i numeri. Il problema è che una legge elettorale deve garantire la rappresentanza dei singoli partiti e soprattutto degli elettori che votano i singoli partiti, ma non è sufficiente la rappresentanza. Dobbiamo parlare di governabilità, dobbiamo garantire la governabilità, perché gli italiani oggi credo che siano stanchi della propaganda, dei tweet, dei social. Il punto è chi è in grado di governare questo paese, di risolvere il tema della giustizia, del lavoro, delle tasse, delle infrastrutture. Sì. E se pensiamo che i governi possano nascere in laboratorio, in Parlamento, francamente ci raccontiamo delle grandi falsità. Beh, in realtà è quello che è successo per tanti anni tranquillamente, Gelmini. Mi scusi, è quello che per esempio succede in Germania, normalmente. Capito, ma nel nostro paese, guardi, non ha mai funzionato questa modalità, altrimenti evidentemente non ci sarebbe stato il problema di passare dalla prima alla seconda Repubblica se quel sistema avesse funzionato. Senta, Gelmini, lei ha parlato di giustizia, no? E sì. Il tema della prescrizione è sul terreno. Ieri Renzi ha detto che voterà la vostra proposta di Forza Italia, che punta a cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione. Dal PD Verini, responsabile della giustizia, fa notare che è bizzarro che uno che sta nella maggioranza voti e continui a dire le cose che dice l'opposizione, e fa anche notare che la prescrizione è una parte della riforma della giustizia, che ora potrebbe arrivare quella che lui definisce la svolta epocale, il processo celere con tempi brevi, per cui dice Renzi butta via il bambino con l'acqua sporca. Ma io le voglio chiedere un'altra cosa. Stamattina sulla stampa lei ha detto, ma dice, io vedo sì che Renzi continua a dire le cose che diciamo noi di destra, però uno è stato lui a far nascere il Conte 2 e poi finora i suoi, quelli di Italia Viva, come massimo dissenso si sono limitati a non votare un ordine del giorno. Insomma, secondo lei Italia Viva abbaia ma poi non morde, oppure c'è davvero un progetto, diciamo, che potrebbe vedere insieme Forza Italia, Italia Viva, eccetera? No, guardi, io non credo a questo progetto, perché Renzi è stato il segretario del Partito Democratico, il premier di una coalizione di centrosinistra. Oggi, come ho detto nell'intervista, critica le proposte del governo, ma ricordo che questa manovra, rispetto alla quale ci sono fiumi d'inchiostro delle dichiarazioni contrarie di Renzi, i ministri di Renzi hanno votato la plastic tax, la sugar tax, tutta la manovra. Hanno votato il ritiro dello scudo penale per l'Ilva, cioè hanno votato tutti i provvedimenti. Do atto a Renzi che per la prima volta si è astenuto su un ordine del giorno e ha votato contro l'emendamento soppressivo della prescrizione, ma non è un favore al centrodestra, è, come dire, un atto dovuto, perché questo governo e soprattutto Bonafede stanno dando delle picconate straordinaria allo Stato di diritto. Io sento delle sciocchezze colossali sulla prescrizione, viene descritto come un modo per aiutare i politici. In realtà abolire la prescrizione senza avere approvato, non parlato, chiacchierato, ma approvato di una riforma che riduca i tempi del processo, significa condannare gli italiani, tutti gli italiani, ad un ergastolo processuale, cioè allungare ulteriormente i tempi della giustizia che sono già lunghissimi. A me quello che sorprende non è Bonafede, mi sorprende il Partito Democratico, perché francamente questo rigurgito giustizialista non me lo sarei aspettato e credo che sia un fatto grave. Venendo alla proposta Costa, il 27 sarà in aula e lì ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Certamente Forza Italia non si rassegna, perché l'abolizione della prescrizione, come l'ha concepita Bonafede, è un atto incostituzionale, è un fatto di una gravità assoluta, rispetto alla quale credo che sia doveroso da parte dei partiti prendere le distanze. Dopodiché Renzi decida cosa vuol fare da grande. Ad oggi lui sta in quella metà campo, ha votato tutti i provvedimenti e quindi per dirsi liberale ci vuole ben altro. Senta Gelmini, a chiudere sempre sul tema della legge elettorale, qua qualche ascoltatore ci dice sì, però insomma su questa questione della legge elettorale registriamo tutta una serie di oscillamenti, di essere ondivaghi da parte delle forze politiche, per cui qualcuno ci dice Berlusconi per un periodo è stato a favore del proporzionale, insomma, cioè l'idea è che comunque si vada a decidere sulla legge elettorale la cosa che è più conveniente in quel momento per il singolo partito? Guardi, io personalmente trovo le tecnicalità sulla legge elettorale estremamente noiose. C'è chi in Parlamento, come dire, ha un sussulto quando si tratta questo tema, ci sono degli esperti straordinari. Ma io confesso sì, che non lo sono. Mi preoccupo di un fatto, che questo paese, come ho detto prima, deve essere governato, e quindi la tecnicalità della legge elettorale deve essere piegata agli interessi del paese. Il paese ha bisogno di maggioranze stabili, di governi che prendano. Sì, ma qua sollevava, mi scusi, qua si sollevava una questione di coerenza, e qua non è la tecnicalità, abbia pazienza, cioè è tra proporzionale e maggioritario, non è proprio una tecnicalità. Posso dirle una cosa? Io potrei fornirle non dichiarazioni, ma interviste, prese di posizione di Berlusconi chiarissime. Berlusconi è stato il leader che nella Seconda Repubblica ha introdotto il tema della governabilità, se l'è intestato, ricordo lo slogan "la scelta di campo", o di qua o di là. Quindi è chiaro che se il proporzionale si associa ad un premio di maggioranza, si ottengono due obiettivi: la rappresentanza, che è un fatto dovuto, ma dall'altro anche il tema di rendere questo paese governabile, di fare in modo che le scelte vengano assunte da governi forti. Questo e non è un concetto che lei ha già, è un concetto che lei ha espresso. Mi faccia citare un altro passaggio della sua intervista, voglio capire se davvero è così. Lei ha detto: facciamo subito il referendum sul taglio dei parlamentari, il referendum che è stato proposto da un suo collega di partito, Andrea Cangini, e firmato da molti altri, poi in 45 giorni si può tornare a votare. Secondo lei chi ci sta a una cosa del genere? È un sogno impossibile per voi del centrodestra? Ma guardi, se prevale l'ansia di nominare amici e di aumentare la sfera di influenza attraverso le nomine, è chiaro che il mio ragionamento cade. Però la politica non si fa con le nomine ed esclusivamente con scelte di potere. Si fa innanzitutto essendo in collegamento, in sintonia con il paese. Oggi il paese non è in sintonia con questo governo. È un paese che è profondamente distante e qualche volta disgustato da una maggioranza che, laddove vede la presenza dei 5 Stelle, purtroppo non riesce ad intraprendere la strada della crescita e dello sviluppo. Quindi se prevale la politica si dovrebbe andare al voto, perché questo governo è già finito, ha fallito le sfide fondamentali, dall'Ilva all'Alitalia, al rinvio dell'IVA che però l'anno prossimo ci sarà di nuovo, al tema delle infrastrutture, alla prescrizione, quindi su tutto ha fallito. Se si vuole c'è la possibilità di andare al voto subito, e secondo me penso che Renzi ci stia pensando, perché la delusione questa rispetto è a una notizia, questa no, non è una notizia, è un notizia. mio pensiero no, ma insomma che, da quelle parti siete ben informati, ma insomma credo che sia evidente ad una persona di buon senso che questo governo è a fine corsa ed è arrivato al capolinea. Se prevale la politica si deve andare a votare, perché non si può aver paura del voto, non si può stare a Palazzo Chigi con delle maggioranze che non hanno vinto le elezioni. Quindi la legge elettorale, al di là delle tecnicalità, deve essere semplice: governa chi ha vinto le elezioni, non governa chi si fa un accordino in Parlamento. Quindi ecco perché noi vogliamo, ci va bene anche il proporzionale, ma ci deve essere il premio di maggioranza. Gli italiani devono sapere a chi danno le chiavi del paese, le chiavi di Palazzo Chigi. Grazie Maria Stella Gelmini di Forza Italia. Grazie a voi. Buona giornata, buona buon lavoro. Giornata. Una pausa, ci ritroviamo subito dopo, parleremo di imprese, partiremo da autostrada, abbiamo il sottosegretario alle attività produttive Buffagna tra poco. Stefano Buffagni, vice ministro allo sviluppo economico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Maria, che facciamo? Iniziamo sì, da autostrade, iniziamo che dici? Iniziamo da autostrade, sì. Buongiorno, buongiorno viceministro Buffagni. Beh, insomma, la società, il concessionario Autostrade, ha messo sul tavolo questo mega piano di investimenti da 7,5 miliardi, un aumento di risorse sulla manutenzione, e poi soprattutto ha schierato un plotone di costituzionalisti, aveva già un plotone di superavvocati, adesso ha schierato anche i costituzionalisti a difesa della società, perché secondo i costituzionalisti si sono schierati con i loro pareri a favore di Autostrade, la norma che di fatto toglie la concessione ai Benetton, la norma inserita nel mille proroghe, sarebbe incostituzionale. Di fronte a questa potenza di fuoco, carota e bastone, miliardi e promessa di battaglia sull'incostituzionalità del mille proroghe, voi dei 5 Stelle siete un po' in un cul-de-sac, o no? No, guardi, noi siamo noi contro tutto il resto del mondo, come spesso succede, perché al di là dei grandi ragionamenti, queste persone hanno puntato sui profitti per anni, mettendo da parte la sicurezza degli italiani e soprattutto le manutenzioni. Quelle che oggi propongono e annunciano come grandi interventi sono degli atti che avrebbero dovuto fare per tempo. Cioè, io non capisco perché in questo paese non ci si indigni tutti davanti a questo tipo di uscita. Cioè, è vergognoso. Io vorrei ricordare che è caduto un ponte. Cioè, un danno d'immagine per questo paese disarmante. Lei si immagini chi abita negli Stati Uniti o in Cina vuole venire per turismo in Italia e viene a scoprire che cadono i ponti, cioè guardi, è una roba secondo me di una gravità pazzesca. Sono morte 43 persone, credo che il governo italiano non possa permettere di continuare ad andare avanti così, perché sopra o sotto quel ponte ci poteva essere chiunque di noi. Allora, beh, però ammettendo la loro responsabilità, Buffagni, cioè dicendo sì, abbiamo fatto poca manutenzione, fatta male, ora la faremo e faremo un piano di investimenti da 7 miliardi e mezzo, è offrire, diciamo, pur sempre qualcosa. No, scusi, ma cioè lei ha capito che sono morte 43 persone e questi ci vogliono provare a comprare pagando pareri di legali ovunque, studi di legali che strapagati sono pronti a difendere qualsiasi e cercare qualsiasi cavillo, pagano pubblicità la metà delle informazioni di questo paese. Cioè, lei capisce che stiamo parlando di 43 morti di un'azienda che per anni ha fatto profitti, perché ci sono dei pedaggi altissimi garantiti dai governi precedenti. Credo che sia una situazione insostenibile, quindi per garantire sicurezza e abbassamento delle tariffe il governo italiano farà il possibile. Dopodiché io credo che servirebbe anche un adeguato racconto nel paese. Io non trovo davvero paradossale il fatto che quasi quasi poverini si danno a carezza ai poverini, adesso però stanno recuperando, ma lei si immagini se uno di quei 43 morti fosse stata una persona a lei cara? Ecco, io credo che questo sia lo spirito col quale ciascuno di noi dovrebbe approcciare questo tema, perché dopo quel caso del ponte, cosa pazzesca, ripeto, anche solo il danno d'immagine fatto all'Italia ha un valore che è ben superiore rispetto ai 7 miliardi e mezzo che loro ci hanno proposto di investimenti, non di danni, risarcimento danni, ma di investimenti, cioè di un qualcosa che poi lo Stato, secondo la concessione vigente, gli dovrebbe pure ripagare. Cioè, lei ha capito di cosa stiamo parlando? Quindi voglio dire, mi sembra veramente una situazione pazzesca e paradossale davanti a questi azionisti di controllo che non capiscono che sono assolutamente considerati inaffidabili da parte nostra e stanno facendo danno a tutti i piccoli azionisti, perché è inutile che viene attaccato il governo. Qui la situazione è ingestibile, perché sono lei si ricorda che sono venuti giù 200 kg di calcinacci in una galleria qualche settimana fa? Sono venuti, sì, a galla. Ricordo, sì, che ci sono erano, anche tanti erano ponti. Erano 2000 i chili. No, ci erano sono due tonnellate. Erano due tonnellate. In realtà, ecco, immagini che passava una macchina lì sotto. Non lo so, io. I report falsificati dei controlli? No, ma scusi, ma io dico, qua stiamo sottovalutando. Qua bisognerebbe fare una campagna comunicativa forte, raccontando tutte queste cose, ricordando alla gente in questo paese gli investitori sono ben accetti, ma devono sapere che se non rispettano le regole pagano. Perché allora, come ti prendi i profitti quando investi e le cose vanno bene grazie alle tariffe che pagano i cittadini, tu hai quelle tariffe perché dovresti mantenere in stato normale le infrastrutture. Se tu non lo fai, è bello mio, paghi. Allora, abbiamo Buffagni, un minuto di pausa e poi ho una domanda su quello che succede ora. Allora, mettiamo, Vice Ministro, che passi la vostra linea, la linea del Movimento 5 Stelle, e che appunto venga tolta la concessione ad Autostrade. È una domanda che abbiamo rivolto già alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, non ricevendo una risposta definitiva, completa, perché uno quando fa un'operazione di questo genere, a mio giudizio, ma immagino a giudizio di tutti, deve avere un piano. Allora, tu togli la concessione ad Autostrade e ti trovi un gruppo con 7.500 dipendenti che che in sostanza non ha più cosa far fare a questi 7.500 dipendenti perché la concessione non ce l'ha più. Che cosa fai con quei 7.500 dipendenti? Li incameri? Li porti dentro ANAS? Li fai quindi diventare dipendenti pubblici? Come funziona? Allora, premesso che non è la, cioè noi questa soluzione, queste ipotesi di scenario le abbiamo fatte e abbiamo una serie di ipotesi, e quindi questo voglio che sia chiaro, perché non siamo così dei pazzi da analizzare un percorso e non considerando tutti i passi successivi. Quello che le posso, quindi di certo non lo anticiperò oggi, perché stiamo parlando di un nemico molto più, diciamo, dotato di risorse di noi, che paga consulenti, fa denunce ogni 2 secondi, è un'azienda quotata, quindi io non voglio dare pretesti o scuse per cercare di potenziare. Autostrade è un nemico? Beh, scusi, ci fa ricorso ogni cosa, ci ha fatto ricorso per il ponte di Genova, non hanno fatto un'ammenda, praticamente se sono le vittime del disastro che hanno combinato, sa, a me questa cosa fa anche un po' ribrezzo, se permette, non so, io anche racconti che si continuano a fare ci si dimentica che cosa hanno combinato, io non capisco veramente questa cosa che non indigni diciamo i mezzi di informazione, perché se lei parla con i cittadini, la metà dei cittadini la pensa come noi, un altro quarto è più moderata ma dice bisogna mandarli via, e forse c'è un quarto di che dice ma siamo sicuri e quant'altro. Quindi poi a un certo punto ricordiamoci che il governo rappresenta il volere degli italiani. Detto ciò, certamente quelle persone sono persone in grado di fare una parte del lavoro, e quindi ci sono tutti gli strumenti nelle leggi ordinarie attuali per garantire che quelle persone, nel frattempo che la concessione viene riassegnata, lavoreranno per la manutenzione ordinaria, perché non dimentichiamoci, una concessione revocata per rimettere la gara non è che ci vogliono 2 secondi, e non credo che rientrare sotto il perimetro di ANAS sia la strada giusta, ok? Quindi esistono degli strumenti e ci sono nella legge, e di certo non glieli dico io oggi, ma può andare a verificare, quindi di opzioni ce ne sono tantissime. Noi garantiremo però la sicurezza, anche perché le spiego un piccolo problema anche di natura politica. Nel momento in cui viene revocata una concessione, viene tolta la concessione, viene assorbita la società, dal giorno dopo tutte le responsabilità nell'immaginario collettivo vanno in carico allo Stato. Se però la manutenzione è stata fatta per decenni e c'è un altro incidente perché per anni non è stato fatto nulla, ovviamente la gente se la prende con noi il giorno dopo. Quindi non pensi che non abbiamo considerato anche questo rischio di natura comunicativa e di natura strutturale. Quindi sono tutta una serie di elementi che abbiamo sul tavolo, tutto è chiaramente in fase di valutazione, anche perché andare in televisione e fare gli annunci o in radio, come in questo caso, è facilissimo, ma poi la complessità del problema richiede un approfondimento, un ragionamento. Scusi, non più tardi di ieri mi pare di aver letto che la procura di Genova abbia denunciato, lamentato pressioni che hanno subito i loro periti indipendenti, lei ha capito, da avvocati di controparte. Cioè questa è una cosa, ripeto, non so, io ho visto il film Gli Intoccabili con Al Capone che prova a fare, cioè, lei capisce che è una roba pazzesca, un paese non è normale quando ci troviamo in questa condizione. Io mi aspettavo che davanti a una situazione di questa gravità queste persone dicessero: guardate, sì, forse vi chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, meglio che ce ne andiamo, lasciamo l'azienda e ci togliamo noi, perché oggettivamente ci sta nella vita fare qualcosa, insomma, non mi sembra che non dovrebbero vivere sotto un ponte. Eppure no, è diventata una guerra, addirittura con delle lettere imbarazzanti inviate ai giornali dove dicevano che il governo è brutto e cattivo. Cioè, mi scusi, Autostrade le ricorda la mafia di Al Capone? No, ma non ho detto questo, non mi metta in bocca cose che non ho detto, perché poi domani c'è il titolo. L'ha citato, gli Intoccabili l'ha citato, no, lei, io insomma. Ho detto un modello, sì, gli ho detto un modello di scusi, gli ho fatto l'abbinamento tra quello che ha denunciato la procura di Genova ieri. È un modello che mi pare pazzesco, che dovrebbe indignare tutti. Cioè, è stato detto ieri, si è letto, non so se, che sono state ricevute pressioni da parte dei tecnici nominati dalla procura da parte degli avvocati controparte. È uscito un articolo, non è Fonte Buffagni, e questa cosa a me indigna. Ci troviamo in una situazione pazzesca. Senta, Buffagni, questa battaglia per la revoca delle concessioni autostrade è una battaglia che si è intestata al Movimento 5 Stelle, non so quanto vi sentiate sostenuti dai vostri alleati di governo, di sicuro uno degli alleati di governo è contrario ed è Italia Viva. Io però vorrei parlare adesso dei problemi di casa vostra, cioè dei problemi interni al Movimento 5 Stelle. Continuano a esserci questo stillicidio di uscite dal movimento. Ieri altri due senatori, Di Marzio e Ciampolillo, sono andati via. Si dice che anche Giarrusso sia in bilico. Come diceva Renzo Arbore, meno siamo meglio stiamo, o lei è preoccupato di questo stillicidio di uscite ed è preoccupato che magari Salvini possa in qualche modo trarne vantaggio, no? da questi che vanno via? Ma Salvini si sia già preso qualche nostro senatore quando fino al mese prima diceva che era indegno chi faceva queste cose, è un dato di fatto. Dopodiché, se qualcuno non si trova più nel Movimento 5 Stelle, rispetto agli impegni presi in campagna elettorale, dovrebbe dimettersi e farsi eleggere con un'altra forza politica. Capisco che poi invece, una volta che si arriva in quei palazzi, si perde un po' il contatto col mondo reale, che è uno dei limiti dell'essere un parlamentare, secondo me. Ma lei è stato contattato dalla Lega? Le hanno mai chiesto di passare? Ma non le risponderò mai a questa cosa, ma al di là di questo è evidente che ci sono delle dinamiche parlamentari che sono spesso folli. Quello che le posso assicurare è che chi va via poi casualmente diventa, o chi esce e chi va nel gruppo misto, diventa sempre un grandissimo sostenitore del governo in carica. Perché? Perché a un certo punto diventa una droga quella poltrona, e non si lavora più per gli italiani, ma si lavora forse per se stessi, considerato che più la legislatura va avanti e più queste dinamiche aumentano, ed è sempre una cosa storica, lei va da vedere anche nelle scorse legislature, perché tutti provano a riposizionarsi sul cavallo che potrebbe essere dato vincitore, no? C'è una forza politica che sta crescendo. Io mi ricordo quando a un certo punto col PD forte, Renzi fortissimo, nella scorsa legislatura tantissimi si spostano sul PD, qualcuno anche dei nostri. Perché? Perché tu pensi di posizionarti su quello che vince, che magari ti ricandida e ti dà un altro turno, un altro giro di voto. Senta, questa legge proporzionale, Germanicum, vedrà la luce, o adesso che la Consulta ha eliminato il rischio del maggioritario, rischio per alcuni, vantaggio per altri, ma insomma, ora che la Consulta ha eliminato questo rischio, anche il lavoro sulla legge elettorale si fermerà o si rallenterà? Io credo che la legge elettorale sia in discussione. Oggi c'è il tema che il genio di Salvini con la Lega ha firmato per fare il referendum sul taglio dei parlamentari, quindi è determinante per disegnare una legge elettorale. Quindi grazie a Salvini, mentre grazie ai 5 Stelle avremmo risparmiato 100 milioni all'anno col taglio dei parlamentari, grazie a Salvini e alla Lega adesso ci vedremo 3,50 di botto. Quindi vabbè, questo. Dopodiché credo che la legge proporzionale al momento sia l'accordo trovato tra le forze politiche presenti in Parlamento, tra tutti, mi pare un accordo ampio. Io non mi appassiona questo tema, anche perché ho imparato, vedendo da fuori sempre l'ambito politico, visto che è la mia prima legislatura a Roma, che quando uno prova a fare una legge elettorale pro domo propria perde sempre. Quindi bisogna cercare di fare una legge che garantisca la rappresentatività. Tanto, guardi, la governabilità è un obiettivo che ci poniamo tutti, ma immancabilmente vedo che si fa fatica sempre a realizzare, anche nei famosi periodi in cui c'era questo tanto decantato bipolarismo. Poi lei si ricorda quanti trasfughi c'erano, c'è stato qualcuno che è stato addirittura condannato per compravendita di senatori. Quindi cioè, è la tempra umana quella che manca, secondo me, in questo paese, spesso per chi fa politica, non la legge elettorale giusta. Abbiamo 30 secondi, si arriva a fine legislatura, Buffagni? Io non vedo motivo per non farlo, però per arrivare a fine legislatura il governo in carica deve fare un'agenda di governo, deve porsi degli obiettivi realizzabili, non mitologici, e deve piantarla ogni due secondi, cioè quello che fa il più uno, che fa la differenza. Io capisco che ci sia qualcuno che ha necessità di visibilità e cerca di prendere posizioni politiche per far vedere che... Zingaretti ha detto che l'insuccesso ha dato alla testa a Renzi, c'era scritto oggi sulla stampa, Condivide? Bene, secondo me Renzi dovrebbe stare un po' più in mezzo ai cittadini e si renderebbe conto di qual è la percezione che hanno i cittadini di quello che lui fa. E sulla base dell'ascolto poi potrebbe, immagino, ragionare su come comportarsi di conseguenza, perché non c'è termometro migliore del mercato, della riunione di condominio, della strada. Dobbiamo chiudere. Grazie a Stefano Buffagni, Vice Ministro dello Sviluppo Economico. Maria, ci risentiamo lunedì alle 8:20. Con tutti Vice Ministro, ciao Simone, ciao a tutti. Con tutti gli altri ascoltatori, con me, insomma, ci risentiamo alle 6:30 di lunedì. Ciao.